Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12 e 14 minuti circa, nuovo appuntamento con Salva Danaio, ultimo per questa settimana. Oggi parliamo di prestiti, di varie tipologie di prestiti e di come effettuare questa scelta, perché in molti casi appunto è una scelta delicata, soprattutto per il periodo. Lo faremo come sempre con illustri ospiti. Prima di tutto saluto la collega del Sole 24 Ore, Rossella Cadeo, che mi tiene anche compagnia in studio. Buongiorno Rossella. Buongiorno, buongiorno a tutti. E poi saluto collegato al telefono l'avvocato Antonio Serpetti, che è un esperto del Sole 24 Ore, che ci raggiungerà tra qualche istante. Abbiamo qualche problema sulla linea. Sarà presente anche il presidente di Assofin, Valentino Ghelli. Ah, eccolo qui in studio addirittura, sono emozionata per l'arrivo del nostro esperto. Adesso entra e ci raggiunge al tavolo dove siamo già sedute io e Rossella. Vi ricordo i numeri attraverso i quali si può intervenire: 800 24 00 24 per il numero verde per intervenire telefonicamente, 349 238 6666 per i vostri sms. Aspettiamo le vostre domande, i vostri dubbi per rispondere, e vi anticipo già che domani sul Sole 24 Ore vi saranno alcune risposte, alcune delle prime risposte ai quesiti che arriveranno e che sono arrivati già online. Poi ne parleremo con Rossella. Intanto faccio accomodare il nostro ospite, che può entrare in studio e sedersi con noi. Nel frattempo vi racconto che cosa sta succedendo sui mercati, come di consueto. Che cosa succede sui listini in questi secondi, in questi ultimi minuti? Stanno accelerando leggermente le piazze del vecchio continente. Parigi guadagna uno 0,10%, Francoforte lo 0,20%, Londra guadagna uno 0,33%, sta migliorando, sta accelerando il passo anche Milano. Il FTSE MIB guadagna uno 0,3%, il FTSE All Share uno 0,25%. Sul listino principale allunga il passo la Banca Popolare di Milano, che in questo momento diventa il miglior titolo, più 6,38%. Fondiaria Sai guadagna un 5,42%. Già vi abbiamo raccontato nel corso del giornale radio che i titoli della Galassia Ligresti sono sull'otto volante negli ultimi giorni. Ricordiamo l'aumento di capitale partito lunedì. Banca Monte dei Paschi di Siena guadagna il 3,83%, UbiBanca il 3,45%. Buzzi Unicem il 2,34%. In fondo al listino invece Atlantia meno 3,41%, quindi amplia le perdite il titolo, così come Telecom Italia, che cede l'1,67%, Ansaldo cede lo 0,88%. Incrementa anche l'euro sul dollaro, 1,45,24 in questo istante. E allora do il benvenuto al nostro ospite, così facciamo anche la prova a microfono. Buongiorno, buongiorno presidente. Buongiorno a tutti. Allora, adesso noi invece mandiamo la nostra scheda. Un viaggio con la famiglia, un'auto nuova, la ristrutturazione della casa o l'acquisto di un televisore nuovo. Possono essere tante le occasioni che richiedono un investimento notevole di denaro e quindi il ricorso a un finanziamento. Ma come si fa a scegliere tra le molte offerte il prestito più adatto alle proprie necessità? Le opzioni sono numerose. Si va dai prestiti personali a quelli finalizzati, dalla cessione del quinto dello stipendio alle carte revolving. Nello specifico, i prestiti finalizzati sono destinati all'acquisto di un bene specifico e prevedono maggiore semplicità e rapidità della pratica. Spesso vengono erogati direttamente dal punto vendita del bene grazie a particolari convenzioni e finanziarie con gli istituti di credito. Tra i prestiti finalizzati più comuni ci sono quelli per auto e moto, viaggi e vacanze. I prestiti personali invece consentono di ottenere liquidità senza fornire una motivazione specifica. Una volta stabilita la finalità del prestito, bisogna valutare con attenzione il costo complessivo di ogni offerta. Un'operazione quest'ultima resa più semplice dalla nuova normativa che regola il settore dallo scorso anno, che prevede, tra le altre cose, una maggiore trasparenza per i consumatori. Una novità consistente è senz'altro l'introduzione del diritto di recesso in caso di ripensamento entro 14 giorni dalla conclusione del contratto e, se il finanziamento è a tempo indeterminato, in qualsiasi momento, senza spese aggiuntive. Le 12:19 minuti, vi ricordo il numero verde 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms. Con la nostra scheda abbiamo fissato un po' quelli che sono i punti principali che poi andremo ad approfondire nel corso della puntata. Questa puntata dedicata appunto alla scelta del prestito, perché oggi il Sole 24 Ore è in edicola con una guida particolare dedicata da pagina 27 in poi, quindi dopo aver letto approfonditamente tutte le pagine dedicate alla manovra, trovate l'approfondimento relativo alla scelta del prestito. Rossella, ci tenevo anche a dire che online c'è una guida aggiuntiva, ci sono altri contenuti? Sì, assolutamente sì, questa è la 14ª guida del Sole 24 Ore dedicata appunto a temi di interesse per il consumatore. Tutte queste guide, e appunto anche questa che si intitola La scelta del prestito, sono accompagnate da una documentazione online, da una nutrita documentazione online che offre degli strumenti per capire di più, per orientarsi meglio nella materia, e offre anche la possibilità ai lettori, agli ascoltatori dei lettori del Sole, agli ascoltatori di Salvadanaio, di ottenere delle risposte quasi in diretta dai nostri esperti. Infatti sul sito è possibile collegarsi all'indirizzo del Sole 24 Ore e porre le domande che più interessano al singolo lettore. Le domande saranno pubblicate, quelle più generali, quelle che possono interessare un maggior numero di persone, sul Sole 24 Ore di domani, mentre le altre saranno online a partire dai giorni successivi. Allora, leggendo queste quattro pagine dedicate, uno degli elementi che diciamo ricorre è un po' la necessità di darsi un limite, cioè nel considerare qual è il budget familiare è necessario non andare mai oltre una certa soglia, quindi generalmente mai oltre un terzo di quello che entra nelle casse, diciamo, della famiglia, del singolo, insomma di chiunque poi si appresti a fare una scelta di questo tipo, che credo sia un punto fondamentale anche per Assofin. Mi dica se sbaglio, presidente Ghelli. Assolutamente no, perché la buona qualità del credito erogato è un qualcosa che va ovviamente nell'interesse del consumatore, che stipula un finanziamento sapendo di essere in grado di ripagare il finanziamento, quindi di non incorrere nessun tipo di problema, ed è anche nell'interesse di chi eroga il credito, visto che direi il 99% del credito al consumo erogato in Italia è senza garanzie, quindi non ci sono garanzie di nessun tipo. L'unica garanzia è la corretta valutazione del merito creditizio del cliente. Al fine di promuovere la cultura finanziaria in Italia e quindi mettere in condizioni chi accede a un credito, a un finanziamento, a un mutuo, a un prestito personale, a un prestito finalizzato, di valutarlo correttamente, noi abbiamo realizzato da anni, abbiamo anche rilanciato ultimamente un sito, un programma che si chiama monitorata.it, che è assolutamente anonimo, gratuito, di facile accesso, dove ogni persona che sta valutando di accendere un finanziamento, un mutuo, un prestito, può valutare correttamente l'impatto di questa nuova rata. Supponiamo una rata di 300 euro per un bene di consumo. nel mio reddito familiare, tenendo conto della mia situazione, certo, di reddito sociale, economica, del fatto che sono sposato con figli e anche della zona di residenza, perché sappiamo che vivere nel sud Italia è meno costoso che, certo, vivere a Milano, mette in condizione di fare in modo rapido e anonimo una autovalutazione completa, che evita anche di superare, mi scusi se lo dico così, ma il 30% può, sì, essere una soglia assolutamente bassa, e quindi... Infatti questo volevo chiedere, perché forse in questo momento poi tra l'altro di crisi, che insomma è una crisi che attraversa il paese e quasi tutte le fasce sociali, forse, certo, il 30% può essere una soglia considerata da molti bassa. Io non so quanti di quelli che ci stanno ascoltando e che hanno magari dei prestiti, un mutuo o quant'altro, si limitano a impiegare solo il 30%. Ma guardi, dipende proprio dal reddito disponibile e dalla situazione della famiglia. Ci sono delle famiglie che non possono permettersi un finanziamento dell'1% del loro reddito disponibile, perché tutto il reddito è destinato a pagare l'affitto, la vita familiare, certo, l'acquisto di beni di beni primari. Ci sono altre famiglie con dei redditi superiori o con degli impegni anche dal punto di vista dei figli inferiori che possono anche superare questa soglia. Per cui il consiglio è eliminiamo il fai da te, impieghiamo 5 minuti per fare una valutazione scientifica. Questo è un sito che noi abbiamo realizzato in collaborazione con primarie, università e società internazionali, che mette a disposizione in modo molto fruibile, molto facile e simpatico, diciamo, del consumatore, uno strumento di autovalutazione. È meglio spendere 5 minuti, 10 minuti all'inizio, per fare questa cosa all'inizio, ed evitare di avere poi un problema alla dopo. Fine. Rossella, velocemente vediamo quali sono anche le tipologie, perché magari non tutti sono, come dire, edotti su quali sono le possibilità che ci sono in campo. Uno pensa semplicemente di recarsi in banca e chiedere un prestito, quando invece poi ci sono delle altre possibilità che si possono sfruttare, anche se poi vedremo che ognuna di queste ha delle caratteristiche che possono andare più o meno bene a seconda poi della persona e di quelle che sono poi le sue necessità e anche le sue disponibilità. Sì, infatti in questa nostra guida abbiamo voluto dare anche una sintetica indicazione di quelle che sono le tipologie principali di finanziamento. Finanziamenti che rientrano nell'ambito della legge sul credito al consumo, che è stata riformata recentemente e che ha trovato applicazione graduale e soprattutto dal 1° giugno è diventata pienamente operativa con gli ultimi tasselli normativi. Ricordiamo che il credito al consumo sono quei prestiti che vanno da una soglia di 200 a 75.000 euro. All'interno di questa macro area, certo, possiamo distinguere quelle che sono le principali tipologie, che direi sono quattro: sono i prestiti personali, i prestiti finalizzati, poi abbiamo le carte revolving e la cessione del quinto. Direi i prestiti personali sono quelli, poi ce lo potrà confermare anche il presidente di Assofin, sono quelli che sono concessi da banche o intermediari e che il cliente, il risparmiatore, il consumatore può utilizzare come meglio crede per spese improvvise, non deve specificare, diciamo, per quale motivazione. Sono infatti anche quelli più richiesti e quelli che hanno un tasso di interesse, un TAEG, un tasso di interesse più contenuto. Abbiamo invece i finalizzati, che sono collegati all'acquisto di determinati beni, in genere sono le automobili, moto, sono beni di una certa entità. Poi abbiamo le carte revolving, anche queste sono una sorta di carte di credito, dove però il prestito, il finanziamento non si paga in un'unica soluzione come le carte di credito normale, ma a rate, attraverso strani meccanismi, adesso complicati meccanismi. Complicati, sì, esatto, mi sembra il termine adatto. Complicati meccanismi per cui questo plafond può anche essere ripristinato e sono quelle forse che costano un po' di più e nelle quali il consumatore si rischia perde di perdersi e che hanno concentrato anche diverse di servizi e lamentele perché se non se ne conosce esattamente il meccanismo. Poi abbiamo la cessione del quinto che anche questa ha un tasso di interesse, un costo abbastanza alto perché perché c'è una tra i costi bisogna ricordare che c'è una polizza assicurativa, infatti questa, certo. questa formula è legata alla disponibilità di uno stipendio, di una busta paga o di una pensione. Sì. Chiaramente la persona che si impegna deve essere, cioè il creditore deve essere garantito nei confronti di questa persona, quindi c'è anche una polizza assicurativa su soggetto contraente. Quindi anche la cessione del quinto, direi in una classifica ideale, i personali sono forse quelli con meno vincoli e più conveniente, poi abbiamo i finalizzati, le revolving, la cessione del quinto. E del resto il mercato, come appunto forse ci potrà spiegare meglio il presidente. Si suddivide anche le preferenze del mercato, vanno proprio in questa articolazione. E allora volevo subito andare dall'avvocato Serpetti, anche perché fino a questo momento non abbiamo ancora sentito la sua voce, perché la collega Rossella Cadeo ha nominato questo tag, e allora cerchiamo un po' di capire bene, perché questo tag a volte può trarre in inganno, può essere un po' fuorviante e nascondere delle insidie per il consumatore. Certo. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, il tag effettivamente può ridurre qualche equivoco e creare delle difficoltà nel consumatore, proprio perché è una sigla che peraltro spesso unita al TAN, al TAG o ad altre sigle che possono evidentemente non essere chiare. Quindi dobbiamo subito dire che il TAG è un indicatore del costo complessivo del credito per il cliente, ecco. Quindi è un tasso in qualche modo che indica il costo oltre il quale non è possibile andare, quindi il consumatore non può essere impegnato oltre questo tasso. E deve essere comprensivo degli interessi applicati al finanziamento, ai compensi per eventuali intermediari, comprende anche le commissioni, le imposte obbligatorie per legge e tutte le spese che sono note al finanziatore e che sono poste a carico del consumatore. Invece vediamo bene che cosa è escluso dal TAEG. Sono esclusi i costi notarili, per esempio dove vi siano, eventuali penali, ecco, che un cliente si troverà a dover pagare e essenzialmente il famoso cosiddetto tasso zero, sì. Quando ci sono i finanziamenti a tasso zero, è opportuno che il finanziatore tenga conto che il tasso zero deve essere applicato, per essere effettivamente non ingannevole il messaggio, al TAEG e non al TAN. Ecco, perché a volte leggiamo, no, tasso zero e poi sotto piccolino TAEG, non so, 7, qualcosa e magari restiamo un attimo così disorientati, può succedere. Certo, può succedere, però ecco, questo tipo di messaggio in qualche modo non è in linea con quanto prevede la disciplina, perché appunto il tasso zero per essere autenticamente così deve riguardare il TAEG e non il TAN. Allora, vedevo che il presidente Galli mi faceva dei cenni perché giustamente vuole intervenire su questo argomento, su questo particolare nodo, perché questo può essere uno, anche perché già di per sé la denominazione TAEG non è proprio simpatica, può così appunto disorientare il consumatore. Ma innanzitutto le volevo fare i complimenti perché lei ha degli ospiti che mi rubano il lavoro perché ne sanno più di me. Prima la dottoressa Cadeo, adesso l'avvocato, hanno dato delle spiegazioni molto chiare, molto, molto pertinenti. L'unica osservazione è questa: nel TAEG vanno anche tutti i costi. Adesso, dal 1 giugno, con l'applicazione della nuova normativa, andranno anche inserite le imposte di bollo, che prima erano escluse. Sì. Quindi ci può essere TAN 0, TAEG 2%, perché l'imposta di bollo di 14,62 sì. euro, se non ricordo male, su un piccolo finanziamento incide per... Non sarà più possibile, vero quello che diceva l'avvocato, scrivere TAN 0 in grande e TAEG piccolino, perché la nuova normativa dal 1 giugno, quindi è già in applicazione, prevede che il TAEG debba essere scritto in ogni annuncio con la stessa evidenza grafica del TAN o di ogni altro elemento di costo. Quindi se voglio scrivere a caratteri cubitali tasso 0, esattamente con le stesse dimensioni, dovrò scrivere nella mia pubblicità TAEG 0 o TAEG 1%. Tanto per essere chiari per tutti, insomma. Sì. Diciamo che questa normativa ha introdotto anche altri elementi che vanno a favore del consumatore. Primo tra tutti è il fornire a chi va a chiedere un finanziamento anche tutta la documentazione per fare dei confronti, per cercare di capire qual è l'opzione migliore per le proprie tasche. Rossella. Sì, diciamo che questa normativa è ispirata proprio a una maggiore trasparenza e a nuove tutele nei confronti del consumatore, della parte debole del rapporto tra le due parti. Proprio per favorire il confronto tra i prodotti è stato introdotto questo nuovo modulo, un modulo standard che conterrà delle informazioni, che deve contenere delle informazioni di base e che dovrà essere utilizzato per tutte le proposte che il consumatore potrà trovare sul mercato, di modo che potrà mettere più facilmente a confronto qual è la durata di questo credito piuttosto che di quell'altro, qual è il costo effettivo, qual è l'importo. Potrà conoscere bene chi è la società erogatrice del finanziamento e quant'altro. Quindi direi che questa è una delle novità. Forse ha prodotto un po' di problemi per le società finanziatrici, in quanto hanno dovuto adeguarsi, rivedere tutti i moduli e tutti gli strumenti di comunicazione, però potrebbe essere un primo passo della trasparenza. Poi appunto, senz'altro, l'altro della pubblicità, perché siamo abbastanza bombardati di queste pubblicità molto... Sì, cioè, infatti, come diceva anche prima il presidente Ghelli, a questo punto dovrà essere molto chiaro il tasso, capire certo. bene a che cosa si va incontro, perché non è che poi uno si può trovare delle sorprese quando va a pagare la rata o a fine finanziamento, non è più accettabile... Prego. Sì, diciamo che questo è il miglioramento. E la differenza rispetto a prima, anche prima venivano date delle informazioni, ma erano informazioni generali. I fogli informativi riportavano delle condizioni generali. Adesso, come diceva la dottoressa Cadeo, dal 1 giugno si danno queste informazioni standard, che sono l'offerta personalizzata sul cliente. Quindi ogni cliente ha diritto, nel momento in cui si reca da un intermediario finanziario, da un suo rappresentante, quindi anche in un negozio per fare un acquisto, di ottenere gratuitamente naturalmente, un preventivo personalizzato. Quindi poi può confrontare le condizioni che vengono fatte a lui sulla base delle sue esigenze e delle sue caratteristiche con quelle offerte da altri intermediari. Un altro elemento importante è che sono stati introdotti questi famosi 14 giorni che venivano anche citati nel servizio di apertura di recesso. Perché? Perché spesso le operazioni di credito al consumo piacciono anche agli italiani, funzionano bene, anche perché sono perché semplici, abbiamo visto sono che rapide. Nei primi 5 mesi sono molte le operazioni e l'importo è notevole, sì, quasi 23 miliardi. Ecco. Di euro, di valore, certamente. Sì, di erogato. E perché diciamo si mette a disposizione il credito del cliente nel momento in cui serve e dove serve, che vuol dire non presso la banca la settimana prossima in tempi lunghi, ma anche al sabato pomeriggio presso un centro commerciale. Certo. Questo però che cosa comporta? Che quando io sto facendo l'acquisto di un bene e leggo a questo acquisto di un bene anche l'accensione di un finanziamento, non vado a leggere tutta la documentazione, devo avere subito l'evidenza delle informazioni significative, tasso zero, TAEG 2%, ma ho la possibilità, tornando a casa, di leggere il contratto, la modulistica, e se c'è qualcosa che non mi convince ho 14 giorni di tempo per esercitare senza spese, senza dare nessuna giustificazione, un diritto di ripensamento, quindi recedere dal contratto di finanziamento, e questa è un'ulteriore garanzia nei confronti, certo, del cliente, e anche per noi è questo volevo sapere, vi ha messo in qualche modo in difficoltà, è stato un aspetto che invece avete accolto magari anche positivamente dal vostro punto di vista? Ma guardi, tutte le volte che bisogna cambiare qualcosa, ovviamente ci sono per gli intermediari costi, problemi, attività di formazione, bisogna cambiare tutte le logiche, anche tutta la contrattualistica con la rete di vendita, per cui ci sono dei costi a breve termine. Io sono convinto che a medio termine, non dico neanche a lungo, a medio termine paga, perché la trasparenza, un cliente informato, un cliente consapevole, un cliente che ha dei diritti, paga. E quindi fa crescere il mercato e amplia il mercato. Ci sono anche nel vostro speciale citati ulteriori garanzie che vengono date al cliente, che addirittura mettono il credito al consumo come forma di pagamento in condizioni di maggiore tutela e di maggiore garanzia per il cliente rispetto a un pagamento in contanti. Cioè col credito al consumo si hanno delle tutele che un pagamento in contanti un pagamento fatto con una carta di credito non ha. Ne cito una. Noi oggi come intermediari siamo responsabili della puntuale erogazione del servizio. Sono arrivato qui a piedi sotto un sole cocente, fa caldo, pensato alle vacanze. Se io oggi compro un pacchetto viaggi e lo pago in contanti o lo pago con un finanziamento rateale, nel momento in cui, spesso succede, quando mi presento all'aeroporto per partire, il tour operator è fallito e il mio viaggio è andato evaporato, in fumo, diciamo così. Se ho pagato in contanti devo insinuarmi in un fallimento e vedere se riesco a portare a casa un euro. Se ho pagato con un'operazione di credito al consumo ho il pieno diritto di avere il 100% del rimborso, anche se ho già pagato delle rate. Quindi è un qualcosa che pesa sul conto economico degli intermediari, ma che secondo me a medio e lungo termine può favorire un accesso più trasparente, più informato e più garantito dei clienti al credito. Roberto da Parma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Ci dica. Io chiamavo perché prima è stata passata un'informazione secondo me non precisa. Ci dica. Quando la dottoressa spiegava che il prestito personale è più conveniente del prestito finalizzato. Io lavoro da 10 anni nel settore e le posso dire che avendo lavorato in banca il prestito personale, quindi il denaro contante al cliente, viene dato a un tasso di interesse più alto, in quanto la banca non sa a cosa servono in realtà questi soldi. Mentre con il prestito finalizzato, quindi legato all'acquisto di un bene come può essere l'autovettura, si sa a cosa servono questi soldi, quindi diciamo c'è un bene di mezzo, un'informazione più precisa, oltre ad esserci anche la conoscenza di quello che è l'intermediario, può essere il concessionario di fiducia, il negozio con la quale la banca ha un rapporto per esempio da più tempo, e è vero anche il discorso della cessione del quinto che è stata messa all'ultimo posto. Sì. Ci sarebbe da fare il distinguo: se il cliente si sta rivolgendo a un intermediario, allora è vero che le assicurazioni vengono fatte pagare carissime e l'intermediario guadagna tanti soldi. Quando mi occupavo di cessioni del quinto nell'istituto dove lavoravo prima, le garantisco che venivano fatti dei tassi di interesse, in virtù anche di convenzioni, decisamente bassi, decisamente più convenienti dei tassi personali. Quindi io metterei credito al consumo al primo posto, se c'è il caso, se è necessario, cessione del quinto, altrimenti prestito personale in ultima istanza la carta revolving. La carta revolving scivola sempre sull'ultimo gradino. Grazie a Roberto da Parma per queste sue osservazioni. Io chiederei una veloce battuta al presidente Ghelli a questo proposito. Ma sono osservazioni corrette, anche se quello che diceva la dottoressa Cadeo è altrettanto vero, cioè nel prestito personale c'è un maggiore elemento di rischio che deriva dal fatto che i soldi vengono messi direttamente in mano al cliente e non si conosce la reale motivazione del finanziamento, che invece nel credito finalizzato è conosciuta, quindi il rischio è più basso. Nel credito finalizzato però c'è un intermediario che è la concessionaria, certo, d'auto, il venditore, e gli intermediari, il disturbo bisogna pagarglielo, quindi c'è un costo dell'intermediazione. Diciamo che quello che sposta il vantaggio sul prestito finalizzato sono le offerte a tasso zero, certo, perché vado a memoria, ma in Italia circa un'auto su due viene finanziata a tasso zero, sì, e nei mobili, negli elettrodomestici il rapporto è 1-1, cioè per un finanziamento con un tasso effettivo c'è un finanziamento con un tasso zero. Quindi la convenienza è quando trovi evidentemente delle offerte competitive. Sul fronte della cessione del quinto è vero che i tassi applicati sono più bassi, però c'è il costo delle polizze assicurative che in alcuni casi, pensiamo alla legge che comunque ha esteso la cessione anche alla pensione, evidentemente sui pensionati il costo di una polizza vita può avere, certo, anche un impatto molto robusto sul, diciamo, costo non trascurabile, finale. Il tasso di interesse è più basso, ma il costo dell'assicurazione può essere molto veramente alto, significativo. Lello da Bari, buongiorno, benvenuto. Volevo chiedere al dottore, lì ha un nostro ospite, sì, come io acquistando un computer con dalla Telecom e mi dicevano che io dovevo pagare una rata di 25 euro al mese, però la rata era ogni due mesi, 50 euro, quindi 18 rate. Ora mi arriva la fattura di Telecom e mi dice che dovrei pagare 60 euro ogni due mesi. Siccome è scaduto questo termine che dicevate dei 14 giorni di garanzia per la rivalsa, ora come posso comportarmi su questo? Allora, io girerei questa sua domanda, visto che è un caso concreto, all'avvocato Serpetti. Dunque, innanzitutto è opportuno che il nostro ascoltatore tenga conto del fatto che i 14 giorni effettivamente decorrono dal momento in cui si è stipulato il finanziamento, sì, e in questo caso non so se siano trascorso o meno, ma non si tratta, diciamo, di una rivalsa, ma si tratta evidentemente della possibilità di revocare, sì, il contratto di finanziamento. Poi, per quanto riguarda la questione legata all'uso del computer, è probabile che si tratti di una fattispecie tendenzialmente diversa, perché se con Telecom lui probabilmente avrà anche la possibilità di una connessione ad internet e quindi bisognerà vedere se questo computer è per caso ceduto o incomodato, oppure ci sono altre fattispecie contrattuali che in qualche modo possono esulare dal puro finanziamento, per cui è possibile che queste somme ulteriori che gli vengono richieste trovino, certo, in qualche modo una giustificazione anche in altri servizi che sono offerti al signore. Poi chiaramente bisognerebbe leggere le carte e avere un'idea precisa delle patrizioni che lui ha sottoscritto, però essenzialmente, ecco, è importante capire che i 14 giorni sono per revocare, cioè, sì, il recesso, per recedere dal contratto di finanziamento, ecco. Presidente Ghelli voleva aggiungere qualcosa? Sì, un'indicazione concreta al nostro ascoltatore e anche agli altri ascoltatori che potrebbero essere interessati. I 14 giorni li abbiamo esclusi perché sono, sì, passati. Per contestazioni circa il contratto che è stato stipulato e le condizioni applicate, si può ricorrere all'arbitro bancario e finanziario. Il costo è di 20 euro. Se una persona ritiene che siano state applicate delle condizioni, in questo caso difformi, è vero quello che dice l'avvocato, bisognerebbe avere in mano il contratto, certo, il contratto perché è capire. Un operatore come Telecom, che è primario, diamo per scontato che abbiano operato nella piena legalità, ma in ogni caso, se una persona ritiene di essere stata danneggiata, ricorso all'arbitro bancario e finanziario, sul sito si trovano i moduli, sì, e le modalità di accesso. Il costo a fondo perduto è di 20 euro, quindi nel caso in cui venisse dato ragione c'è il rimborso dei costi indebitamente percepiti dall'intermediario, nel caso in cui venisse dato torto una persona comunque ha avuto una risposta, da un ente certificato per dirimere queste questioni. Avvocato, a lei proprio l'ultima domanda. SMS: nei contratti di finanziamento concessione del quinto il costo dell'assicurazione obbligatoria rientra nel TAEG? Il costo dell'assicurazione non rientra nel TAEG. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato, noi ci dobbiamo fermare. Prima però di chiudere vi ricordo che in edicola con il Sole 24 Ore domenica 3 luglio il settimo libro della collana Racconti d'autore, dedicato questa settimana ad Amélie Nothomb e ai suoi due racconti, L'entrata di Cristo a Bruxelles e Senza nome. Io ringrazio i nostri ospiti, partendo questa volta dall'avvocato Serpetti, collegato con noi telefonicamente, esperto legale del Sole 24 Ore, dalla collega, a lui buona giornata, dalla collega Rossella Cadeo che è intervenuta in studio con me del Sole 24 Ore, grazie Rossella, e ovviamente un grazie al presidente Valentino Ghelli, presidente di Assofin, che è arrivato sotto il sole e quindi ha fatto anche un notevole sforzo per raggiungerci in studio. Grazie a Gaia Romani in redazione, a Fabio Cantadori in regia. L'appuntamento con Salva Danaio è per lunedì.